madamina. Il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo è lì che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse, marchesine principesse, ma donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni età, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesine, principesse, van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Voi sapete quel che fa.